Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Il mattino dopo, ad un'ora già tarda, Buck guidava il lungo tiro attraverso le strade della città. Non c'era la minima vitalità, energia o slancio in Buck e nei suoi compagni. Iniziavano il viaggio già in uno stato di prostrazione. Buck aveva compiuto 4 volte il percorso tra Saltwater e Dawson, e l'idea di doverlo affrontare per una quinta volta, così esausto e mal ridotto, lo rendeva triste. Non metteva alcuna passione in quel lavoro, e come lui neppure gli altri cani. I cani forestieri erano timidi e spauriti, mentre i cani locali non avevano la minima fiducia nei loro padroni. Vagamente Buck sentiva che non si poteva fare affidamento su quei 2 uomini e quella donna. Non sapevano far niente, e col passare dei giorni diventava sempre più chiaro che mai avrebbero imparato. Erano approssimativi in tutto, senza ordine né disciplina. Passavano mezza nottata a piantar malamente il campo e metà della mattina per levare il campo e caricar la slitta in modo così sciatto che per il resto del giorno erano sempre costretti a soste per rimettere in sesto il carico. Certi giorni non arrivavano a far 10 miglia, altri giorni non riuscivano neppure a partire. Era dunque inevitabile che restassero a corto di cibo. Ma affrettarono la cosa nutrendo i cani più del dovuto e giungendo quindi abbastanza in fretta al momento in cui dovevano nutrirli meno del dovuto. I cani forestieri, che non erano abituati, avevano un appetito insaziabile. E quando gli esausti eschimesi presero a tirar debolmente, Al decise che la razione normale era troppo scarsa e la raddoppiò. Venne quindi il periodo di penuria. Un bel mattino Al scoprì che metà del cibo dei cani era finito e che avevano coperto solo 1/4 della distanza complessiva, e inoltre che non c'era modo di procurarsi altro cibo né per denaro né per amore in quel posto. Ridusse allora la necessaria razione dei cani e tentò di aumentare il percorso giornaliero. In ciò sorella e cognato erano d'accordo, ma sia il pesante equipaggiamento sia la loro incompetenza rendeva vani i loro sforzi. Era abbastanza facile dare ai cani meno cibo, ma era impossibile farli viaggiare più svelti, quando la loro incapacità di mettersi in strada al mattino più presto impediva di aumentare le ore di marcia. Non soltanto non sapevano badare ai cani, non sapevano badare neppure a se stessi. Il primo a sparir di scena fu Dab, quel povero ladruncolo maldestro, sempre colto sul fatto e punito. Era pur stato un lavoratore fedele. Adesso la sua spalla lussata, senza cura e senza riposo, prese a peggiorare e alla fine Al gli sparò col grosso revolver Colt. La meravigliosa pazienza sulle piste che sboccia in uomini che lavorano sodo e soffrono molto e rimangono gentili nelle parole e nei gesti non sbocciò affatto in loro. Di quella pazienza non ne avevano neanche un briciolo. Erano invece irrigiditi e doloranti nei muscoli, nelle ossa e persino nel cuore. E a causa di ciò i loro discorsi erano diventati aspri, e le parole dure erano le prime a comparir sulle labbra al mattino e le ultime a scomparir la sera. Charles e Al attaccavano briga ogni qualvolta Mercedes dava loro un pretesto. Convinzione prediletta di ciascuno dei due era di faticar più di quanto gli spettasse, e nessuno dei due trascurava di esprimere tale convinzione non appena ne avesse l'opportunità. Mercedes prendeva a volte le parti del marito e a volte sosteneva il fratello, e il risultato era un bellissimo, interminabile litigio in famiglia. Cominciavano a discutere su chi avrebbe dovuto tagliare la legna per il fuoco, discussione che riguardava solo Charles e Al, e in breve veniva tirato in ballo tutto il resto della famiglia, padri, madri, zii, cugini, lontani 1000 miglia di chilometri, e certe volte pure anche morti. Nel frattempo, il fuoco non era stato acceso, il campo era piantato solo a metà, e i cani non avevano ancora mangiato. Mercedes aveva delle lagnanze speciali che la occupavano, quelle del suo sesso. Era bella e delicata, e per tutta la vita era stata trattata con cavalleresco riguardo. Ma il modo in cui veniva trattata ora, sia dal marito che dal fratello, era tutt'altro che cavalleresco. Non saper fare nulla era stata fino ad ora una sua abitudine, ed adesso quelli trovavano qualcosa da ridire. Attaccata in ciò che costituiva la più essenziale prerogativa del suo sesso, Mercedes trasformò la loro vita in un inferno. Così dei cani non se ne occupava più, e giacché era stanca e avvilita, continuava a farsi trasportare sulla slitta. Era carina e delicata, certo, ma pesava anche 120 libbre, ed un tale gravoso fuscello diventava per quei cani deboli e denutriti la goccia che fa traboccare il vaso. Per giorni e giorni viaggiò dunque sulla slitta, finché i cani si abbatterono a terra tra le tirelle e la slitta non si mosse più. Charles e Al le chiesero di scendere e continuare a piedi. La supplicarono, la scongiurarono. Nel frattempo lei piangeva e scomodava il cielo, con una recita sulla loro brutalità. E attraverso tutto questo, Buck vacillava in testa alla squadra come in un incubo. Tirava per quel che poteva, e quando non ce la faceva più, cadeva a terra e vi rimaneva, sinché i colpi di frusta o di bastone non lo rimettevano in piedi. Il suo bel pelo aveva perso ogni consistenza e lucentezza, pendeva floscio e opaco, pieno di macchie di sangue coagulato nei punti in cui il bastone di Al l'aveva percosso. I suoi muscoli erano diventati corde nodose, ed egli non aveva più cuscinetti di grasso, sicché attraverso la pelle cascante e raggrinzita in vuote pieghe, ogni costola e ogni osso del suo scheletro emergevano chiaramente. Era uno spettacolo da spezzare il cuore, ma il cuore di Buck non poteva spezzarsi. Ciò era stato dimostrato dall'uomo con la maglia rossa. Non diversa la situazione dei suoi compagni. Le loro condizioni erano tanto disperate da renderli insensibili ai morsi della sferza, come ai colpi del bastone. Il dolore delle botte era qualcosa di sordo, lontano, così come erano lontane e opache le cose che i loro occhi vedevano e le loro orecchie sentivano. Neanche vivi per metà o per un quarto. Erano soltanto sacchi d'ossa in cui vagamente balenava qualche barlume di vita. Quando v'era una sosta, essi si abbandonavano a terra, come morti tra i tiranti, e quel barlume si offuscava, impallidiva e sembrava scomparire. E quando il bastone o la frusta scendeva su di loro, quel barlume palpitava debolmente ed essi si rialzavano a stento, vacillavano e procedevano. Venne il giorno in cui Billy il bonario cadde e non poté più rialzarsi. Al non aveva più il suo revolver, così prese la scure e colpì Billy alla testa mentre era ancora tra i tiranti. Indi tolse la carcassa dai finimenti e la trasse da parte. Buck vide ciò, come lo videro i suoi compagni, ed essi capirono che la stessa sorte stava per toccare anche a loro. Il giorno dopo fu la volta di Cuna, e così rimasero solo in cinque. Joe, ormai troppo esausto per essere perfido, Pike, sciancato e zoppicante in uno stato di quasi incoscienza e non più in grado di essere un simulatore, Sol Lex, con un occhio solo, ancora fedele al suo lavoro di traino sulla pista, ma tetro, perché gli era rimasta poca forza per spingere, Tick, che quell'inverno non aveva viaggiato quanto gli altri, perciò più fresco degli altri e dunque più bastonato degli altri, e infine Buck, ancora in testa alla squadra, ma non più capace di imporre la disciplina o di lottare per imporla, e quasi sempre mezzo cieco della debolezza che seguiva l'indistinto tracciato della pista e le deboli sensazioni dei suoi piedi. tempo primaverile era bellissimo, ma né i cani né gli uomini potevano rendersene conto. Giorno dopo giorno il sole si alzava prima e tramontava più tardi. Alle 3 del mattino sorgeva l'alba, il crepuscolo durava fino alle 9 di sera e per l'intera lunga giornata splendeva un sole abbagliante. Lo spettrale silenzio dell'inverno aveva ceduto il passo al gran mormorio primaverile della vita che si ridesta. Da ogni declivio giungeva il gorgoglio di acque che scorrevano, la musica di invisibili sorgenti. Tutte le cose uscivano dal gelo, si dispiegavano, sbocciavano. Il fiume Yukon si sforzava di rompere il ghiaccio che lo bloccava, corrodendolo da sotto, mentre il sole lo scioglieva da sopra. Si formavano buchi, fessure si aprivano e si allargavano, mentre sottili lastre di ghiaccio sprofondavano tutte intere nel fiume. E in mezzo a tutto questo erompere, aprirsi, fremere di vita che si risveglia, sotto il bagliore del sole nel dolce alitar delle brezze, come viandanti verso la morte, vacillavano i due uomini, la donna e i cani eschimesi. Con i cani sfiniti, Mercedes che piangeva sulla slitta, Al che imprecava senza costrutto, e Charles che volgeva pieno d'ansia gli acquosi occhi all'intorno, la traballante carovana giunse al campo di John Thornton alle foci del White River. Appena fermi, i cani si abbatterono a terra come colpiti a morte. Mercedes si asciugò gli occhi osservando John Thornton e Charles si sedette a riposarsi su un tronco d'albero. Si sedette con lentezza e fatica perché era tutto indolenzito. Fu dunque ad Al che toccò di parlare. John Thornton stava dando gli ultimi ritocchi ad un manico di scure che aveva ricavato da un ramo di betulla. Tagliuzzando il legno, ascoltava, rispondeva a monosillabi e, se richiesto, con concisi suggerimenti. Conosceva quel tipo di gente e dava i consigli con la certezza che non sarebbero stati seguiti. «Lassù ci hanno detto che il fondo della pista sta sciogliendosi e la cosa migliore sarebbe fermarsi», disse Al rispondendo a Thornton, il quale l'aveva avvertito di non arrischiarsi a procedere sul ghiaccio rotto. «Ci hanno anche detto, però, che non saremmo riusciti a raggiungere il White River e invece eccoci qua». Quest'ultima frase con un ghigno di trionfo. «E vi hanno detto giusto», replicò John Thornton. «Il fondo della pista può spezzarsi da un momento all'altro. Solo dei pazzi, con la cieca fortuna dei pazzi, potevano farcela. Ve lo dico subito. Io non rischierei la pelle su quel ghiaccio per tutto l'oro del mondo». «Perché non è pazzo, immagino», disse Al. «Tuttavia noi andremo a Dawson». Srotolò la frusta. «In piedi, Book, su! In piedi! In marcia, andiamo!» Thornton continuò a tagliuzzare il suo pezzo di legno. Sapeva che era tempo perso mettersi tra un pazzo e la sua pazzia, e due o tre pazzi in più o in meno non avrebbero cambiato il mondo. Ma la muta, a quel comando, non si alzò. Ormai quei cani erano ad un punto in cui si sollevarono solo con le botte. La frusta schioccò qua e là, compiendo la sua opera poco misericordiosa. John Thornton strinse le labbra. Sol Lex fu il primo a drizzarsi faticosamente. Tick lo imitò, seguito da Joe, che uggiolava dal dolore. Pike fece un doloroso sforzo, ricadendo a terra per due o tre volte quando era a mezza strada, e la terza volta riuscì ad alzarsi. Invece Book non fece nessuno sforzo. Rimase tranquillamente dove era caduto. Ed anche quando la frusta lo morse ripetutamente, egli rimase a terra, senza guaire né dibattersi. Più volte Thornton ebbe un sussulto, come se stesse per parlare, ma poi cambiasse idea. Gli si erano inumiditi gli occhi, e siccome le frustate continuavano, si alzò in piedi e prese a camminare avanti e indietro, come se fosse indeciso sul da farsi. Era la prima volta che Buck non obbediva. E ciò era in sé motivo sufficiente per far imbestialire Al. La frusta venne sostituita con il solido bastone. Ma Buck rifiutò di muoversi anche sotto la pioggia di pesanti colpi che si abbattevano su di lui. Al pari dei suoi compagni era appena in grado di sollevarsi. Ma a differenza di loro, aveva deciso di non farlo. Aveva la vaga sensazione di una catastrofe imminente. Tale sensazione era sorta in lui molto forte mentre tirava la slitta sulla riva del fiume e in seguito non l'aveva più abbandonato. Forse a causa del ghiaccio sottile e screpolato che si era sentito sotto i piedi per tutto il giorno, gli pareva di avvertire un disastro molto prossimo, là, su quel ghiaccio, dove il suo padrone cercava di condurlo, e si rifiutò di muoversi. Aveva tanto sofferto ed era così esausto che i colpi non gli facevano più neanche male. Continuavano a piovergli addosso ed intanto il barlume di vita che era in lui vacillava e si riduceva sempre di più. Era quasi spento. Si sentì stranamente intorpidito ed era cosciente che lo stavano picchiando, ma come attraverso una grande distanza. L'ultima sensazione di dolore lo abbandonò. Poi non sentì più nulla, benché avvertisse fiocamente l'impatto del bastone sul suo corpo. Ma non era neanche più il suo corpo. Gli pareva una cosa lontanissima. E a questo punto, d'un tratto, senza preannuncio, con un grido inarticolato più simile a quello di un animale che a un grido umano, John Thornton si buttò addosso all'individuo che brandiva il bastone. Al venne scaraventato all'indietro, come se investito da un albero che si abbatte al suolo. Charles guardò smarrito, asciugandosi gli occhi acquosi, ma non si alzò, siccome era ancora del tutto irrigidito. John Thornton si chinò su Buck, cercando di controllarsi, troppo preso dal furore per parlare. «Se colpisci un'altra volta questo cane ti ammazzo», arrivò a pronunciare alla fine con voce strozzata. «Il cane è mio», replicò Al, pulendosi il sangue dalla bocca mentre tornava verso l'uomo. «Togliti di mezzo o ti faccio vedere io. Io vado a Dawson». Thornton rimase tra lui e Buck, senza mostrare la minima intenzione di togliersi di mezzo. Al estrasse il lungo coltello da caccia. Mercedes strillava, piangeva e rideva, abbandonandosi ad un confuso attacco isterico. Thornton colpì le dita di Al con il manico di scure, facendogli cadere il coltello al suolo, e gliele colpì di nuovo quando Al cercò di raccoglierlo. Indi si chinò, lo raccolse egli stesso, e con due colpi recise le tirelle di Buck. Al non aveva più voglia di battersi. Inoltre aveva le mani, o meglio le braccia, occupate a sorreggere la sorella. Quanto a Book, quel cane era troppo vicino alla morte per poter essere di qualche utilità nel traino della slitta. Pochi minuti dopo, i tre stavano scendendo lungo la riva del fiume. Book li udì partire ed alzò il capo a osservarli. Pike guidava, Sollex era in coda, ed in mezzo erano Joe e Tick. Zoppicavano tutti e barcollavano, mentre Mercedes era seduta sulla slitta sovraccarica. Al guidava la barra e Charles seguiva incespicando. Mentre Book li osservava, Thornton gli si inginocchiò accanto e con mani ruvide ma gentili lo palpò per vedere se avesse qualche osso rotto. Quando giunse alla conclusione che i suoi unici mali consistevano in molte ammaccature ed in un terribile stato di inedia, la slitta era ormai distante un quarto di miglio. L'uomo e il cane la osservarono strisciare sul ghiaccio. D'un tratto videro la parte posteriore della slitta affondare come in un solco e la barra con Al attaccato che volava per aria. Alle loro orecchie giunse uno strillo di Mercedes e scorsero Charles voltarsi e fare un passo indietro. Indi tutta la lastra di ghiaccio cedette, facendo sparire uomini ed animali. In quel punto, adesso, si poteva vedere solo una voragine spalancata. Il fondo della pista aveva ceduto. John Thornton e Book si guardarono. «Povero diavolo che sei», disse John Thornton, e Book gli leccò la mano.